Gargamella? Ah, Samone! Claudio Cartella! Bello quello strumentino, bello, bello, piccolino! Che batteria c'ha dentro? Boh, non lo so, non l'ho aperto. Vabbè, guarda l'alimentatore, da quanto è, così ti rendi conto che batteria ha. 5 volte. Allora c'è la batteria del telefono uguale. Sicuramente. Quanto costa lui? 51 con gli adattatori. Un po' presto, dai. Già mangio, sulla glicemia bassa. Caretto. 1,03. Ho attaccato adesso l'antenna là, che c'è sul tetto. Ho capito, sono andato in bagno, lo cos'è detto? Che c'ho l'antenna adesso che c'è sul tetto. 1,03. Vabbè, dai. Siamo tre messe, 1,01, no, possibile. Anche 1,00, 1,01, 1,00, 1,1, da non confondere, 1,00 con 1,01 con 1,1. Tu non vedi, vai aria calda ancora, allucinante. Sai che mi ho fatto la voce di mutande in terrazzo? C'è aria calda. Beh, vedo il compagno sul tempo. Beh, infatti, ma... Non vedi in terrazzo, no, perché chi ha l'aria? Ma non mi vedi in terrazzo? C'è caldo. Sai, ci sta alzando sto vento. Ma cumari, che ho guai. Poco fa sono uscito per fare le prove, appunto. No, già sto a posto. Allora, lasciate che funzioni con l'antenna là, poi vi sono effetto. Non l'hai visto che funzionava bene. Alla grande. Io alla fine, cosa mi ricordo che sul rosso metterò voi nuda? Cosa mi ricordo? Un punto di domanda, non posso antenni. In che senso? Non ho capito. Vabbè, non ne faccio di questo strumento se me lo compro, non ne faccio niente. Scusa, le antenne come le misuri nel caso che tu ti cambi l'antenna? Cioè, è sempre utile gli strumenti. Se no, non è che li usi tutti i giorni, però se devi cambiarti l'antenna, mettere un'altra antenna, come ti fa a sapere se funziona? E più tu hai ragione. Tu mi vai a dire, ando da chi si riferirà e me lo posso dare. Beh, da comodità. A codire. Ti ho chiesto il favore di controllarmi l'antenna, non ti ho chiesto il rosmetro. Per esempio quello della 27 me l'ho comprato, eppure mica ho chiesto il rosmetro a nessuno. Quando sei venuto tu qua, l'hai portato tu, e ti sei arrigato, mica me l'ha data a me. Cosa vendrà? È meglio averli comunque. Meglio averli, tanto una volta questi li comprimi, non è che... Capito? No, va bene, va molto molto bene, bello illuminato. Lo crepo in pieno lo crepo. Sono rubri che non ti lasciano in lucido. Lo so. Beh, Luca. Ma perché sopra moduli? Tanto non passi. Non passi, no. Avanti, aiuto. Non passo, no, perché non passo lo straniero, non per altro. Perché tu abiti ai confini con la Francia? E qua c'è una barriera. Ah, come dire che cuccio. Dillo, e bentoni. Buonasera Tino, Luca e l'altro Luca. Io vedo Bizzino, tu buon polio, sempre in fisso. Sta più forte Luca qua, perché fanno scala, voi siete scarsi. Scarso sono io, vabbè, tu sei di là in fondo, però di pronto è che arrivo. Sì, arrivi ma proprio l'MLMLM, livello quasi 0-0, poca roba. Lo so, sto usando la direttiva, sto usando l'ex 300. Se avessi usato quella lì, già mi avessi sentito bene. Ehi, Luca arriva fuori scala perché è gay. Per quello. Devo fare cosa? Già sono qua. Visto che me, Luca, sei il loro. E dove? L'ho messo su Facebook un poco fa. 6,84 in offerta. Sono 16 canali. Basta me li forza. Meglio di niente. A me lo devi usare per fare qualche impianto. Non devi stare a voci da sopra a sotto. Vabbè, qui va bene. Se ne prendi due sono 12 euro. Sono già programmati tutto dalla fabbrica. Su AliExpress sono me. Ho capito. Andava. ciucchi. Tu qualcosa l'avevi fatta? Cosa? La domanda del REM è fatta l'hai? No. Sono tre mesi disponibili. Quando scade deve fare immediatamente la domanda del REM. Mese, hai capito? Quel mese in pratica di buco. Sì, sì, sto arrivando. Lo pagano lo stesso. Sì. Ma sai dove sto il REM? Ma sai, non posso più fare. Ehi, ma si gira, è girata più verso sorso, dai. Sì, basso così, eh. Cosa dite? Fallo comunque, Luca, quella domanda. Si è con il tempo, scade il 30. Io non lo sento. Luca, falla quella domanda, scade il 30, a me. Gomino, mi senti, Tino? Ti ascolto senza segnale. Sono in terrazzo. Ehi, sei senza segnale, però ti ascolto. A Luca non lo sento. A Luca non lo senti perché è gay. Guarda, adesso sono in sala. Tino? Ehi. Adesso già mi senti, sì, sono in sala. Sì, adesso sì. Ho detto, a Luca non lo senti perché è gay. Direi con il cazzo, andare su col tetto, buh. Ma per carità, se non si buona un'antenna, buoni occhi, è duburu, buh. Luca. Ma poi già tanto i pari, buh. Così. Sono qua comunque. Ehi, sto stando un bel venticello, comunque. Va bene, ehi, ciao, dopo, ciao. Sì, tanto cosa, domani ci avviciniamo e poi vediamo, va. Io. Ciucchi ciù. Salone! Ciucchi ciù. Mi stavo bevendo una crema di whisky, che buona. Bevi. Pompo, mi senti? Certo che ti ascolto. Ho detto l'antenna che c'hai a casa, te l'hai controllata. Ma Pompo, io manco a lui sento, solo a te sento lui. Pompo, io lo sento a tratti. Dove sei? In cabina, sì. Non è più. Non lo so. Devi metterti un'antenna anche lì, se no è un casino. Un po' c'ha così. Non rispondi, no! Che sono i pari da poi. Come combinare? Se stavo parlando non lo sento nessuno. A te sto dicendo, Che Antonello io già lo sento, anche col gommino. Ho detto, non attrezzati anche lì. Andiamo via, uguale. E allora, poi c'ha... la X25. Capa! Io ne ho una qua. Ti ho mandato la foto anche. La provi a mettere lì. E quale sarebbe a essere? Ti ho mandato anche il video l'altra volta. Adesso tu mi mandi talmente tanti di video e coso che io anche me li perdo. Aspetta che lo cerco. Dai, allora tira lo vento. Andiamo, Pompo! Devo fare la tuta. Sta caricando. Qualcuno? Ciao Gianni, e beh Luca, allora ascolto la cosa perché forse deve aggiustare anche un computer. Ha detto che gli si chiamerà lì. Deve praticamente, visto il mio computer, già l'entrata dello spinotto che si è rovinata, lì bisognerà di cambiare quella lì. Ok. Allora, per quanto riguarda, vabbè, il telefono, il suo, un'ottantina di euro, però l'LCD originale è completo di LCD più vetro più frame, cioè il telaio, come ti ho spiegato. Poi ci dovrebbe essere in dotazione anche lo speaker della dove tu ascolti, capito? Nuovo. E poi c'è sicuramente anche il tastino d'accensione, nuovo. Io ti chiamerò lei se ti vuoi chiamare, io gli ho dato il tuo numero e lui ha detto dimmi che te l'ho detto io e così ci parli tu con lui, capito? E la batteria nuova originale c'è anche, mi sono dimenticato di dirti. Ah, tutto il kit c'è? Eh sì, però stai comprando il display nuovo, c'è tutto il kit, certo. Ma chi stai parlando? Ma se è così, poi se vuoi spendere di meno, ricompro quello che costa di meno, cosa vuoi ti dico? Con chi stai parlando lui? Ciao Claudio, buon Gianni. Ah, non lo sento oggi, boh. Ehi, già tu lo senti a Claudio? No, tutto spezzettato ti sento oggi, boh, l'altra volta ti sentivo bene. E adesso un po' meglio. Che se vado, ho già su 10 da zinco di gira, ui. Già ci rimango poco, troppo presto. Ma piovi? E già piove, non ti preoccupare, domani ha dato acqua, è finita la cuccagna, sabato e domenica. Beh, infatti si è alzato questo vento, oiuia, va bene dai. Eia, eia, scappa, sono in ascolto, eia, Roger. C'è Gianni sul 10, Ribeccio è lui, sta caricando acqua per fine settimana. Dai, ci sentiamo dopo anche qua, mi allontano un attimo. Aspetta che vengo anch'io. Gianni, qua a basso arrivi col gommino, dai, anche io sto facendo roba, a dopo. Se lo sento bene io, già tu ascolti basso. Ti ascolto bene già, molto bene. Beh, la zona sua, non lo so. Io poco fa, per esempio, a Tira, a Pompone, non lo risentivo. Dai, vuoi va, purtroppo. Se la tiro. Ti sento male, fatto. Adesso bene. No, prova 25. Gappa gappa. Andiamo bene, andiamo. Niente. Bobo, andiamo bene, andiamo, niente. E io sono sdraiato con il cane già, se fa casino, me l'ho messo sopra con un coso, una copertina. C'è fa il divano e sono qua sdraiato, sto aspettando la Marina. No, è andata a fare una commissione. E adesso tu dici a cucarsi, uia! E chi? Il cane. Beh. E da bravo sta facendo la notte, a piange. Oh, sul raggeggio un bel. E allora già va bene, il mio un pochettino piangeva. Cercava la mamma, andava a tutte le parti, nel terrazzo, da tutte le parti, disperato. Sì, no, già è bravo, guarda. Cioè, va bene. Alla fine, vabbè, quella fai bisogno di terra ogni tanto. E se vuoi fare, ammazzala poi, purtroppo, piccolina ancora. No, ma si abitua, quello lì si abitua. Basta che tu la porti più spesso giù e si abitua. Il mio lo portavo giù e non ne faceva, poi arrivava a casa e la faceva le traversine, li mettevo le traversine in terrazzo e la faceva nelle traversine, lui non aveva capito. Lo so già. No, vabbè, già la fa delle traversine, la traversina in camera, la cacca che fa in terra. Davvero? Allora sei mezzo a biocchendi. Vedete, bambino. Stiamo da bioccando. Mi stai dando solo crocchette, lui. Omogenizzato. Capito già, omogenizzato con le crocchette. Ma ti accorgiamo con omogenizzati, no? 2 euro il pacco. Ce ne sono due, fa... praticamente qua colazione, pranzo e cena, dai. Ah, ma le dimetti in mezzo alle crocchette? Eia. Allora, va bene. Quelli hanno vitamine, cioè... Perché se mangia altro fa diarrea, capito? Ma già, me l'hanno già detto giù. No, adesso non mangiare altro. E la diarrea, bisogna vedere cosa viene da mangiare. Il mio, io l'ho abituato a mangiare la carne, la pasta e cose, e la diarrea non lo fa. Ogni tanto li cambio tipo di carne, un po' li do pollo, pezzi di pollo, un po' li do coscia di pollo, un po' li do cuore, li do rene, un po' tutto li do. Già, praticamente se loro mangiano quello che mangiamo noi, il cane non mangia sano, capito? Ma io lo faccio apposta per lui, non è che la faccio per me, io la faccio senza problemi. Ma loro mi hanno detto così, la roba sana è quella che dicono loro, poi se mangiano quello che mangiamo noi, tipo pasta e mangia carne, non è più roba sana, e il cane si ammala, capito? A me me l'ha detto il mio veterinario di dargli che se sceglievo questo tipo di cibo, però gli devo dare tutte le vitamine, infatti li metto le carote, li metto le zucchine in mezzo. Ma io glielo faccio a parte da mangiare, non glielo do col sale o col sugo, capito? Fa male se tu gli dai... Mi senti? Col sale. Mi senti? Yes. Ok. Lo so, vabbè, tanto i cani mi già hanno quella durata, boh. Campano meno di noi, poi ti affezioni, è un casino. Non sono cose belle, alla fine sì, lo adotti, quello che vuoi o lo... Ok, vediamo un po'. Dura se quanto dura il padrone, invecchiare insieme, sarebbe bello così, ma purtroppo durano troppo poco, hanno una vita molto breve i cani. Vedi, se ti pigli uno di quelli... Mi potete passare Claudio, per favore? Vabbè, se mi paragonavo un pappagallo con un cane. A me dai il pappagallo fa vita, amici. Sì, ma non è la stessa cosa, già, lascia perdere. No, infatti, non è la stessa cosa, come sempre dice insegnarmi a parlare, è un bel spiritoso, c'era quello di un amico... Claudio? Ah, c'era gente a cena, si metteva a dire... A più... Aspetta che non so dove sia. Via. No. Cazzo, poi abito, si sia proprio il dialetto. Sì, c'è una vicina di casa, pappagallo, si chiama Rocco. E sta sempre così. Ho capito, ma si continuano a cambiare stagione, però non interessivo, eh. No, questo qua, di questa... Dica. Ascolta, Cla, signor Sanna, letto numero 1, mi hai detto che ha 1000 di diuresi. Io qui in scheda mi trovo 700 alle 11 più 500 alle 12. Lui, ma Flipper qua, Non sta parlando nessuno? Flipper. Pagallo c'è. Non lo so cosa dirti. Qua ce n'è 1000 tonde tonde, non so se le hanno cercate. Non lo so manco io. Beh, già l'ho contatto al telefono. Guarda che mi senti adesso, Claudio. Consueto. Niente, Simone, non ne ha caricato nemmeno Maria Fatti. Boh, va bene. Con la foto, sì, elettronico. Mi potrebbe interessare, ma io non ne uso intanto di strumenti così vuoi, non capito? C'ho le radio con Rosmetro incorporato, quindi sono tutte in base. Va bene, dai, continua, perché io Gianni non lo sento, rischio di sovramodularlo, ok? Andate al 10, Cla. Ah, troppo presto, cazzo. Non so di sì. Non la ci manco gana. Cosa hai detto? Altro non amate si cosa di te, no, che è andata lo dici. No, vabbè, non è che ne abbia voglia di stare. Ho fatto un culo, cazzo, mi ho sceso la... Ho imballato la direttiva, è 3 metri, 2 metri e 70 lunga per 25 kg di peso. Mi ero sceso a piedi, a collo, dalla mansarda, quindi dal decimo piano sino a casa. Cazzo, ma la stai vendendo? vendendo, venduta e pagata pure, lunedì parte. Lunedì devo passare a prendere a Lucca e dobbiamo scendere giù alla GLS assieme, perché c'ha tutti i dati lui, già venduta, venduta e pagata a Bull, 300 euro l'ho venduta. Ma quale abbiamo smontato noi? No, quella era piccola, quella che era in terra, i radiali, quelli che erano lunghi lunghi in terra, quelli li ho tutti smontati, tutti praticamente messi, per dire, tutto il radiatore in astratto, il riflettore smontato, il direttore smontato in astratto, e poi ho fatto un pacco unico, ho messo tutti i cavallotti, le giunture, tutta la bulloneria dentro, pari una vara, pari 2,70 m lunga, ragazzi. Mamma mia quanto bese, ragazzi. E adesso l'abbiamo portato lunedì con Lucca, perché per il Covid non ci passano più a fare i ritiri, allora dobbiamo portare noi, capito? Parte lunedì, già pagata e tutto. No, quella piccola ancora l'ho venduta, ho venduto il rotore, rotore e l'antenna grande ho venduto. Oh, molto ti è costata la spedizione? Beh, questa dovrebbe costare intorno alle 30, 35, 40 euro, una cosa del genere. Guarda, non lo so neanche io, ve l'ho venduta. C'è un numero di telefono di questo, ci siamo sentiti perché voleva sapere l'ingombro dell'antenna. Ha fatto tutto Lucca. Tutto Lucca ha fatto. Si è arrangiato lui, venduto lui, incassato lui, fatto tutto lui. Io non ho giovato nulla. Ho capito. E vabbè, che intanto non te ne invasi nuda, poi si frazzicava in chivi, se la lasciavi lì. Poi io che se la mettevi sotto, dopo c'è tanto l'altra roba, no? No, no, e cosa devo fare? Il cazzo del parco antenne? No, no. Lì adesso devo montare quell'armadio, devo montarlo perché mi devo mettere tutta l'attrezzatura, i trolli, roba di vestiario invernale, c'è ancora vestiario da lavoro, capito? Sopra, hai visto che ho tutto sistemato, no? Non ne voglio mondezza, anche perché mi devo decidere cosa fare lì, non lo so neanche io, comunque. E niente, mi è rimasta solo a 5 elementi e buono, adesso ho venduto tutto, tutto. E sono contentissimo perché grazie a Lucca ho venduto tutto, almeno me l'ho tolta la mezza ai piedi, mi sono fatto 500 euro. Pazienza, ci ho rimesso un po' di soldi ma non me ne frega niente. Chiamato Gianni qua. Cosa? Senti adesso, io lo sento io a Gianni o Lucia, non si mette nella posizione che parla con me, non so se in camera da letto, dov'è, boh, non lo sento. Ha copiato già. Ehi, ho copiato. Aspetta che guardo a vedere se mi sento. Sì, adesso ti sento, meglio di prima ti sento. Ma cambia quell'antenna, metti l'altra antenna. Cos'è che stavi dicendo, ha detto Luca? Non ho capito, non Luca, cosa ha detto? Ha detto non se lo ricorda più quello che stava dicendo. Sì, ho capito, sei col gommino, tu sei più dietro di lui, più nascosto di lui. Cazzo, e arrivi, sta frequenza di merda è una cosa allucinante. Boh. Ne abbiamo fatto esperimenti in UHF, infatti noi diretta in UHF non ne abbiamo, ce l'abbiamo solo in VHF. Usiamo i punti in U perché è una frequenza di merda, è una cosa allucinante. E beh, quei punti è un'altra cosa, è un grido io. Avanti, Lucca, Lucca, Lucca. Mi aggasivo questa frequenza, ma carità. È un giocattolo, io non lo uso come giocattolo, va. Qualcuno sta parlando qua? No, no, no, nessuno, e anche perché voi avete i portatili giustamente, eccetera. Io sono un po' più organizzato, per quello che vi sento tutti, bene o male vi sento tutti. Se no è un casino. Sono giocattolo, c'è una frequenza giocattolo, Ghilla. Già lo so. Comunque la cosa l'hanno abolito, la concessione, la tassa. Gianni. Andava. Così, l'hanno abolita, non dobbiamo pagare niente. Simona, mi senti? Ehi, allora. Va bene, va bene. Non lascio giocattolo io, Gabbo e Bonier. Giocattolo mi dai dubbi, dai. Non lascio giocattolo io. Io sento a tutti, tranne a Gianni. Va bene, va bene. Luca, Flipper, perché ce l'hai di plastica tu? Di plastica ce li avete. Brucia, brucia. Che vinotto. Com'è? Sta per piovere. Finita la pacchia. Sì, vabbè. Lascia piovere. Aspetta, voglio attaccare X300, che trovava via, Lugavo, QBL, di positivo, troncato lento. Aspetta che stacco questa antenna, metto la verticale, vediamo se mi senti. Ia ia, va bene, va bene. Io già sento a tutti, non agio giocattolo io. Ma sei più basso, Antonè, molto, molto più basso rispetto all'altra antenna. L'altra era quasi fondo scala, questa stai facendo segnale di 2. Di 2? Eh sì, segnale 2, l'altra era fondo scala. Sì, cazzo, allora non c'è per niente, segnale 2. Fatti vai, quindi, non me ne segna nemmeno la palazzo, non me l'avevi subito segnato. Quindi l'antenna sta andando bene. Evidentemente per questa frequenza non va bene. Può darsi che non vada bene o è troppo bassa, Antonio, non lo so, noi siamo vicini. Devi arrivare a fondo scala qua. Sono arrivato una direttiva UHF della Ecoantenne a Luca. Cazzo. Arriva dove c'è scritto on air. Sul base che c'ho io, praticamente oltre il fondo scala, come un DB, dai, alla fine del DB arriva. Proprio fondo scala pieno pieno pieno, ottima quell'antenna, io l'ho usata in UHF, ma facevo un sacco di collegamenti in banda laterale. È bella sì quell'antenna, ma anche la direttiva che ho io funziona bene, grazie a Dio, ma questa che è sotto la mantova a uscire usciva, capito? Che usciva, il problema è qua. Quella là è proprio UHF, non è di televisione, quella è... Io ce li avevo, quella di V e quella in U, c'avevo un traliccio a parte con un altro rotore, poi ne ho tolto tutto. Quella là è della Ecoantenna, mi pare sia 10 elementi, 9 elementi, forse 9 elementi, è grande, è grande, bella, funziona bene, molto molto bene. Tanto è nuova nuova, non la stavo usando, quando è venuto Luca abbiamo fatto pulizia sul letto, portala via, tanto io non ne uso. Se l'ha messa sul tetto, ma lo so quanto arriva bene. Io ce lo credo, è un'altra cosa, è un'altra cuba, meglio della verticale, già è. Poi è una larga banda, perché, larga banda, oddio, perché è proprio quella che ha fatto la Echo, che fa da 430 a 460. Quindi risuona molto bene anche qua, capito? Tu sei in fondo scala qua il segnale, figurati tu. Io sto usando la XC50, la 510 l'ho tolta, anche quella l'ho data a Luca, se l'ha sistemata, se l'ha messa a posto, no, ne ho tolto tutto dal tetto. Il lunedì parte da 3 elementi, è già imballata qua per terra, ne l'ho scesa a collo stamattina, mi avvadiga perché l'ascensore non ci stava. È imballata, già pronta, lunedì mattina scendo ai punti e la spedisco, capito? Già venduta, ha venduto anche il rotore, tutto Luca mi ha venduto. Ha fatto bene, ha fatto. Ma se hai roba che non usi, cosa devi fare? Mi lascia la buttata in garage o cosa del genere, hai fatto bene, te la fai fuori, meno qualche soldino te lo fai. Te lo sbagassi per casa. Ehi, va bene, dai, vado al 10. Ehi, ok. Cla. Radio. Dimmi tu. Antonello, non lo sento più. Sono sul 10. Ok, allora, dai, va bene. Dai, vieni lì, dai, c'è Massimiliano. Ehi, subito entro, sto facendo un sughetto. Ma un dico della vizia. Tu pure lo sai. Favore. E lui. Un ricotto. Sughetto piccantino. Oh yeah. qua. E voi non potete attizzare in mezzo su. Ehi, dammelo, lo metto in mezzo. Lascia per gli altri, dai. Portalo, ce lo metto in mezzo, ecco. Ma in 3 ore sei buono qua a pezzo. Ah, in 3 ore sei buono, intanto io qua giù da camino, non è chi? Ci balla anche dentro nel tagamino, piccolino. Vabbè, pronto usare. Il mi sa che piove subito. Raga, piovi. Ah, beh, Claudio lo so che fa scendere lo smitter. Immaginate una puntata verso casa sua. Pronto usare. L'estra spacca tutto. Ma cacca fatta, dai. Tore, Tore. Simona, mi senti? Luca Perivella,